Toc toc, è permesso? Sono le 8. E questa è la seconda parte. Burro e rock and roll. Questo è il nome della trasmissione. La tua colazione rock. Puntata 174. Di quelle da leccarsi i baffi. E di motivi ce n'è. È venerdì, 1° febbraio 2008, l'anno della svolta. Oggi manderemo in onda per la prima volta Zorrock. Oggi è il compleanno di Rock FM. Oggi abbiamo girato la pagina del calendario. E domenica c'è il primo raduno surrealista di Pane, Burro e Rock and Roll. Cosa volete di più? Una solo col kazoo? Let the sunshine. Anche a Tina. Anche a questo che chiede: ma se a Celle vengo vestito da Zorrock, mi date anche il passaporto? No. Un saluto a Nero 75 Genova, a Manuel, allo Spilung, che chiede strombazzata per il Sei Nazioni, per i cinghialotti italiani, fatto. Ragazzi, è uscito l'ambo della Carla, se non eravate sintonizzati. L'avevate giocato? Salutiamo anche Manuel, anche Ale. Sono triste perché ogni mattina vi posso ascoltare solo 20 minuti. Ale, perché? Inventati qualcosa. Un saluto al gruppo d'ascolto di Bambini Speciali. Vi prego, mandate in onda qualcosa di benaugurante. Domani sera mi gioco la vita sentimentale e l'anello. Attenzione, attenzione. Marco di Muggiò ci segnala che a suo cugino ha appena trovato in autogrill ad Agrate il cantante dei Foo Fighters. Ma chi? Dave Grohl? Ma va, dai. Let it shine on you. Un abbraccio anche a Tommy da Imola. Questi sono i messaggi che vi si ritorcono contro. Voi non l'avete ancora capito questa cosa. Commenta così Zorrock: questa volta il fondo del barile è svuotato e grattato. Zorrock, quale sarà il prossimo passo? Roxy Freddy? Tommy, l'hai detto, cioè, troppo che ce lo siamo appuntati. Il brano di Mox quest'oggi, Patti Pravo, ci credereste? I giardini di Kensington, vediamo se la riconoscete. Roxy Freddy. Troppo che la facciamo. Peter con le mani polvia. Eri nato uomo e adesso più non vuoi. La tua casa lascia e poi scegli un mondo di poesia, sei tu Peter, tu che a Kensington vivi, Peter, tu che a Kensington vivi. Trovi lì i fiori e le fate, in barca lungo la corrente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan, sei tu Peter, tu che a Kensington giochi, Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così, tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Giù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che Kensington resti, Peter. Tu che Kensington resti. Oh, Peter. Dalla finestra chiusa guardi tu, e al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter, tu che a Kensington torni. Magica gioia tu dai, dolce mio rimpianto, dove sei? Nei giardini a Kensington un bambino eterno c'è. Sei tu, Peter, tu che a Kensington vivi. Tu, Peter, tu che a Kensington suoni. Suona ancora così. Tu tu tu tu tu tu tu tu. Giardini di Kensington, Patti Pravo. Arridate celluride! No. Buongiorno, sono Ariel di Rock FM Milano. Sì. È l'Harley Davidson? Sì, buongiorno. Senta, conduco con Roberto Fricantoni una trasmissione radiofonica dalle 7 alle 9 del mattino, un format molto vincente, un format rock. Questo è il centralino, che devo passare? Guardi, appunto, ci chiedevamo per con chi dobbiamo parlare per chiedere una sponsorizzazione. Un attimo solo, eh. Grazie. Pensavo... l'indicazione che io è quella di inviare una mail. Vuoi l'indirizzo? Sì, grazie. @ Sì. domo.com. Perfetto. Senta, lei che... della sua... Lei che è un po' lì, secondo lei qual è l'Harley più rock che aveva? Cioè, dovessimo chiederne una. Non ho idea. No, non so. Lei non conosce i modelli, mi scusi, delle Harley? No, io sono del centralino. E senta, invece Roberto Fricantoni lo conosce? No. Quello degli Schiantos? No. Rock FM neanche? No. Va bene, allora scriviamo una mail. Facciamo così. L'Harley Davidson però è rock. Sì, sì, direi di sì. Forse il modello 883, però è già sfruttato, l'hanno già sfruttato. Buongiorno. Buongiorno signora. Arrivederla, buonasera, buona giornata. C'è la mica voglia. I gotta find a new place where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. Cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around. around, get around, I get around. Yeah, get around, round, round, I get around. Ravanando, non diciamo ravanando, ravanando cosa? Ravanando nel fondo delle notizie, nel fondo del cestino, nel la barile proprio, della, del giornalismo della italiano. Molto sì, bene, nel barile della comunicazione, mi piace l'immagine. Arriviamo a una luce in fondo al tunnel che si chiama Aina, Aina, Ansia. Ecco, molto bene. Strano ma vero. A proposito di tunnel, lo sa che c'è chi vuole uscire dal tunnel e chi invece se l'è arredato? Lei fa parte della seconda, ovviamente. Io mi sono dato una sistemata bello nel tunnel. E ci rimane. Va bene. Grazie per passiamo la sua battuta, poteva anche non farla, ma io vado col titolo della news di quest'oggi. Una zappata sui piedi di Freak. Aspetti, mi vergogno di fare il titolo, lo faccio? Ma sì, io lo farei. Lo farei. No, però il titolo ha ragione, il titolo anticipa troppo. Vado? Ma io vado, mi butto. Scorreggia come un drago, impiegata, licenziata. Molto bene, adesso ne vogliamo sapere di più. Una giovane impiegata della Leeds Metropolitan University, prestigiosa università britannica, è stata licenziata perché è colpevole di scorreggia continuata e senza ritegno in luogo pubblico. Il suo, ha sottolineato la donna, è un vero e proprio problema di salute, pertanto chiede ora i danni all'istituto medesimo e il riconoscimento dello stato di disabile. La scorreggiona, il cui nome non è stato per ovvi motivi diffuso, ha testimoniato che gli altri impiegati dell'ufficio operavano una sorta di discriminazione nei suoi confronti. Ed eccoci arrivato a un esempio di mobbing. Esatto. Quando si faceva scappare una pizzetta, una loffietta, sì, una peretta. Va benissimo, l'abbiamo capito. Di cui abbiamo qui un esempio sonoro. Grazie, grazie maestro, prosegua. I colleghi perdevano la testa e si precipitavano ad aprire, forse troppo ostentatamente, le finestre. Un modo per cambiare l'aria che offendeva l'orgoglio della donna, la corte non ha ancora emesso un verdetto. Solidarietà all'impiegata scorreggiona e togliamo lo stipendio alla redazione di Pane, Burro e Rock and Roll che ci dà queste notizie veramente pessime. Isacco, esatto, per favore. Parteggiare in libertà. Credi che parlare di scorreggia in radio faccia ridere? Sia qualificante? Lei crede che far finta così che possa essere interessante? Beh, però, c'ha il suo fascino, dice, come dicono a Bologna. Dice che guadagniamo c'ha ascolti? Secondo me sì. Sa, la radio volgare paga, paga, come la TV, paga, paga. Pane, burro, rock and roll. Pane, burro, rock and roll. Mazza che figata sto programma, raga! We had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. Oh, he went to fight wars for his country and his king, of his honor and his glory, the people would sing. Pane, burro e rock and roll, la colazione più rock d'Italia. Venerdì 1 febbraio 2008, l'anno della svolta, che si sappia là fuori. Spargete la voce, la nicchia vincerà. Così, tanto per dire. Davide batterà Golia, ma soprattutto abbiamo un asso nella manica. Risponde al nome di Carla. Ciao Carla, li abbiamo beccati. Sì, ciao, li abbiamo beccati. Grande Carla. Allora, ricordo che avevamo due ambi più Terno. Mi ha beccato la... cos'era, il 45-90? Allora, grande. 45-90 fuori ruota. Grande. Che hanno fatto Ambo Eterno e hanno messo assieme 45-9-90, ne hanno presi due. Ah, perché è uscito anche il 9, il, cioè 45? No. No. Non è uscito il 9. Ah, però, è però il... si hanno fatto Ambo Eterno. Sì. Con i tre numeri come ho fatto io. Sì. È andata meglio. Li abbiamo presi due volte. Mannaggia, io non dico nient'altro, che lei, si sappia, ma però. Ma non li hai giocati? Carla, io non ho mai giocato all'otto in vita mia, se devo essere sincero, però mi sta venendo un attimo la carognetta, mi sa che la prossima volta li gioco anch'io. Non sgridare, cioè così, non l'ho mai fatto. Ah no? No, però adesso inizio, giuro. No, uguale, l'importante è che chi li prende vada avanti a giocare. Perché... chissà se qualcuno li ha giocati oppure no. Io ho scoperto che sono usciti, perché se non ricordo male un amico di Livorno mi ha segnalato, appunto, sono usciti i numeri della Carla, però attenta, perché mi dice, io li avevo giocati ma il tabaccaio ha sbagliato a scrivermeli, può capitare. Può capitare. Ma va sti tabaccai e ti arrabbi. Può capitare che sbagliano a capire. E hai qualche... Guarda, io ieri sera ho giocato un ambo. Sì. La prima volta che lo gioco da 5 euro. Sì. È uscito solo l'estratto. Quindi? E quindi ho preso solo il 26. Beh. Ecco. Ma lo stai dicendo per vantarti? O... No, non sto per vantarti. No, infatti, io non lo punterò più da 5 euro. Ma? Da meno. Perché da meno. No, questione... perché quando punto tanto non escono mai. Seguite i consigli di Carla, che si gioca così. No, ma invece qualche... cioè, per non farlo dire al tabaccaio, che poi sbaglia, puoi scrivertelo tu? Prendono la schedina e segnano i numeri. Ok. Una roba così. Così non sbagliano. Senti, tra l'altro sta settimana è stata un po' convulsa perché c'era sta storia del carnevale surrealista, sì. Però a sto punto martedì l'appuntamento nuovo per i numeri nuovi. Sì, perché è inutile che te li do oggi. Comunque se nessuno ha vinto, diciamoglielo, siete dei ciapacquai voi là fuori. Se non li hanno giocati. Sono dei barlanfus, come direi. Però io sono dal parere di andare a giocarli fino a che escono. Quindi, esatto. L'altra volta abbiamo giocato tre volte, la quarta è uscita. Esatto. E allora? Quindi anche questi, basta, li archiviamo in soffitta. Eh sì, ormai ci si risente... fuori ruolo. Esatto, ci si risente martedì per i prossimi. Martedì ti preparo i nuovi. Grande Carla, belli precisi, eh? Buona sì, giornata. Buona giornata anche a te, ciao. E che si sappia, Carla, ce l'abbiamo solo noi di Pane, Burro e Rock and Roll. È un'esclusiva. Io li sento già le altre radio che fanno medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Stray Cats, Runway Boys. No, e devi dirmelo per forza, frigo? Sì, sì, senti quanto sono sfigati gli umani. Allora sentiamo, basta che fai veloce che sono in coda per il cesso. Allora, ho scoperto che ci sono uomini che si sono inventati l'arte carnale. E cioè? Si fanno sfigurare e poi dicono che quella cagata che viene fuori è arte. Non capisco, cioè? Si fanno aprire, mettere le cose sotto la pelle. E la gente paga per vederli? Ma sì, cazzo! Però, frigo, ti rendi conto? Di cosa? Noi due siamo due artisti prigionieri. Gli umani ci tengono in gabbia quando anche noi potremmo far vedere a tutto il mondo le nostre cicatrici nel nome dell'arte. Nel nome dell'arte? Fotti, Tirogna, nel nome dei soldi. Sai quanti ne guadagneremmo con tutti questi tagli? Quante tope! Rogna, l'ho sempre saputo che c'era dell'arte in noi. Cazzo è sta puzza? Scusa, ma c'è il bagno occupato da troppo tempo. Allora mi sono liberato. Basta, Rogna! Frigo, sono costipato! domanda che mi arrovella ormai da giorni è: ma Frick, lei sarà cowboy o lei sarà indiano? Mezzo e mezzo. Mezzo e mezzo, sta pensando così? Sì, ho pensato metà pelli rosse e metà cowboy. Test attitudinale di quest'oggi dedicato ancora ai cowboy e agli indiani in onore del raduno surrealista di domenica. Vi ricordiamo il test attitudinale, non sottovalutate le domande sulla storia del rock. Gliela sparo subito? Cosa sono le frecce? Le frecce degli indiani. Infatti oggi è sugli indiani, perché guardi, quale band italiana ha avuto tra le sue tematiche ricorrenti proprio quella degli indiani? Ipotesi A: forse gli Squallor. Oppure ipotesi B: probabilmente gli Schiantos. O ancora ipotesi C: ma potrebbero essere Elio e le Storie Tese. Chi tra le sue tematiche parlò spesso e volentieri di indiani? La risposta esatta ve la diamo dopo, la giusta soluzione a fra poco.